رجع نيت يمس في الناس تبرته. لا او باني فيرمي با با با با باستا باستا. Ma oh, ma che? Perché? Che gli sfondiamo? Che gli lasciamo tutta la porta sfondata? Sì, certo, sei 4. Pausa regioner. Ed avvicina agli operai che si collocano agli studenti, una lotta comune, l'abbiamo fatto spesso e ci piace tanto. Alle 16:06:21 iniziamo Region Air di quest'oggi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mais de cris ça ils s'entourent parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule la rage car c'est le pire que nous frôlons la rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon la rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux rage trop de mensonges et de secrets gardés limite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité la rage car ils ne veulent pas que ça change à nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges la rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux la rage parce que mes propos dérangent faut aux quatre coins du globe. La rage, la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. E alla fine delle note di Kenny Arcana con La Rage iniziamo questa puntata di Region Air sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa alle 16.09 minuti primi preci preci. 0649 1750 per chi ci volesse chiamare, per chi ci volesse scrivere ondarossa@ondarossa.info. Andiamo appunto ad iniziare questa puntata. Andiamo a fare un attimo un'analisi di movimento per quanto riguarda gli studenti. È un po' di tempo che non facciamo queste cose pallose e molto discorsive, però ci pare il caso di fare una riflessione anche pubblica a livello di studenti. E poi andiamo anche a commentare un po' la manovra di questo nuovo Presidente del Consiglio per dare un attimo il punto di vista degli studenti. Anche in questi giorni la radio sta aprendo i microfoni attraverso tre fili diretti, uno è stato oggi, gli altri saranno nei prossimi giorni, per vedere un po' il punto di vista di tutti quanti, e noi vogliamo dare quello degli studenti. Prima di cominciare però ascoltiamoci un altro pezzo, in particolare andiamo ad ascoltare i Muse con Newborn. Thank you. Sempre e comunque gli 87.9 di Radio Onda Rossa, alle 16 e 16 minuti primi, il numero di telefono è 0649 1750, chiamateci numerosi che ci fa piacere. Andiamo ad iniziare questa chiacchierata per esporvi il punto di vista dei media e per spiegarvi un attimo come sta andando la costruzione di questo movimento dell'anno scolastico 2011-2012. Ecco, appunto, sabato scorso gli studenti medi si sono riuniti in un'assemblea cittadina per decidere anche un po' che, come mobilitarsi per uscire dalle occupazioni e dalle autogestioni delle scuole. Quindi in questa assemblea cittadina si è parlato un po' di come rilanciare il movimento studentesco, magari anche cercando di coinvolgere altre componenti del movimento intero nazionale. E quindi per ora si è deciso da questa assemblea che forse è meglio adesso cominciare a rilanciarsi sul livello territoriale, iniziare a fare opere sociali che possano giovare alla comunità territoriale delle singole città, dei singoli quartieri. Quindi adesso piano piano, diciamo, in questo momento di pausa, di riflessione, di un po' più di quiete, di quasi rilassatezza in cui rilanciamo le nostre campagne a livello territoriale sul sociale, possiamo prenderci tutto il tempo per riflettere un po' su questa manovra, sulla crisi, su cos'è il nostro vero movimento e quindi come ci dobbiamo muovere, come ci dobbiamo confortare. E a proposito della crisi, appunto, abbiamo visto il governo muoversi in una manovra da 30 miliardi. 30 miliardi che avremmo potuto risparmiarci semplicemente non facendo la TAV e non comprando quei 100 cacciabombardieri atomici. Non manca mai un saluto alla Valle che resiste, che ci piace sempre salutare. E, ecco, ma io più che come una conseguenza la vedrei come una causa, ossia c'è stato questo cambio di governo che ci ha lasciati a tutti un attimo spiazzati, adesso cosa succede? Se ne va Berlusconi, è tutto a posto, c'è stata quella marea di gente che è andata a festeggiare la caduta di Berlusconi e noi ci siamo sentiti in dovere di confrontarci un attimo, abbiamo riunito diverse assemblee che sono andate a disquisire, per usare termini colti, mi deridono qui in studio, giustamente. E sono andate a discutere di come muoversi in questo momento e insomma sono andate a ragionare un attimo su qual è il nostro antagonista in questo momento, no? Perché spesso magari qualcuno disinformato o che non si è fermato troppo a ragionare sui motivi per cui si scende in piazza, per i motivi per cui si fa controinformazione, sui motivi per cui ci si mobilita in generale, allora uno potrebbe pensare, non lo so, vado a manifestare contro Berlusconi, vado a manifestare contro la Gelmini. Naturalmente qui la questione è molto più ampia e su questo cambio di governo si è visto un po' una difficoltà nel riconoscere un'altra volta questo soggetto, ecco. E riguardo la manovra, penso che per quanto riguarda le lesioni che vanno agli studenti, insomma, si commenta da sé. Diciamo che la scuola e l'università già erano state lese dalle riforme Gelmini per la scuola, l'università e la ricerca, e perciò su quello si è potuto fare poco, anche perché più di distruggere come è stata distrutta con la Gelmini è difficile fare. Ma il ragionamento che vorrei fare io, che in parte si faceva nel filo diretto stamattina, è che forse questi nostri governanti non hanno ben chiaro una questione, cioè hanno solo l'idea del taglio e poi magari anche chi risponde va solo a dire: ah no, non devi tagliare l'operaio, dovevi tagliare il riccone, e questo è sacrosanto, è giustissimo. Però c'è anche un'altra questione un po' più ampia, nel senso che non si può pensare solo a tagliare, ma bisogna pensare da subito anche a ricostruire. Nonostante si dice che questo qui è un governo tecnico di transizione, quello che vi pare, non si sta mai a raccontare calle, è un governo politico e deve prendere delle decisioni e deve anche pensare non vi dico che deve essere super lungimirante, però deve pensare un attimo anche al futuro, nel senso non può pensare solo a far quadrare i conti dell'immediato futuro prossimo, ma anche a mantenerli saldi nel futuro. E questo non si può fare semplicemente tagliando, nel senso che noi, ceto sociale il più possibile giovanile, ci vediamo adesso senza un futuro. L'abbiamo ripetuto più volte scendendo in piazza, l'abbiamo ripetuto più volte da questi stessi microfoni. Non sappiamo più quando stiamo andando, come diceva Guzzanti. E quello lì è giustissimo, nel senso che sì, adesso fai tagli 30 miliardi, i bot, i PPT, quello che te pare, riquadrano, e poi tra 20 anni, quando io entrerò nel mondo del lavoro, che faccio? La domanda non è retorica, è seria, e un po' tristemente, perciò andiamoci ad ascoltare un altro po' di musica prima di appesantire troppo la discussione, e magari cerchiamo di fare qualche altra riflessione tra poco. Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station. The world is collapsing around our ears. I turned up the radio. Un saluto alla nostra cara amica ministra che si è messa a piangere in diretta su tutte le TV nazionali, questa espressione proprio di maturità e soprattutto di rispetto verso le classi sociali più basse. Cioè, ma io dico, mia madre pia 1000 euro al mese, se vede strappare la pensione sotto, vabbè, mi fanno madde che, ne pia 1400, facciamo così, va bene? Insomma, comunque pia quello che pia, si vede la pensione strappata dalle mani e tu te metti a piagne. Ma che te piagni, vorrei sapere. Baby, baby, baby, baby, that stuff is good. crazy. DJs communicate to the masses. Sex in violent classes. Now our children grow up prisoners all their life. Radio listeners! Naturalmente ancora gli 87.900 della modulazione di frequenza in FM per Radio Onda Rossa alle 16.26 minuti primi con Regione Air. Stavamo dando il punto di vista degli studenti a proposito della manovra di Monti e continuiamo questo discorso facendo un altro intervento di un nuovo compagno che finora ci ha fatto spesso compagnia negli studi ma ancora non vi ha fatto il piacere di farvi ascoltare la sua voce. Allora, buongiorno. Stavamo riflettendo sul fatto del conflitto generazionale creato da questa manovra che alza l'età pensionabile e quindi immette nel mercato, nel cosiddetto mercato del lavoro, vecchi e giovani insieme e crea un conflitto tra padri e figli, padri che devono lasciare il lavoro ai figli e che poi si ritrovano disoccupati e precari anch'essi. Non so, stavo riflettendo su quanto questo fosse sbagliato, su quanto fosse assurdo. Io che devo trovarmi in competizione con mio padre o mia madre per 1.000 euro al mese, su quanto questo facesse solo comodo all'azienda e ai padroni. Boh. E poi naturalmente i padroni si ribaltano la frittata come gli pare, nel senso che vanno a dire sì, ma abbassando l'età pensionabile, poi i soldi che vanno a tuo padre sarebbero i soldi che in realtà dovrebbero pagare la tua scuola, la tua università, il tuo stipendio se lavori nell'amministrazione pubblica o quant'altro. Vogliono farci credere che l'unico modo per pagarci la scuola è elevare lo stipendio a mio padre e abbassare la pensione a mio nonno, ma non credo che si possa fare così. Credo che servano misure di rilancio, credo che serva una patrimoniale vera, credo che servano dei tagli alle spese militari, tagli a spese inutili, a queste grandi opere che da sempre rubano e succhiano i soldi dei cittadini, i soldi di chi paga le tasse anche se non lo vorrebbe. Certo, e naturalmente poi un altro discorso è che, insomma, mi sembra un po' da ipocriti fare un discorso del genere, nel senso che cioè uno quando durante la sua carriera lavorativa versa dei soldi a un'istituzione, ma come se li stesse mettendo da parte per poi quando non sarà più in grado di lavorare riceverli mensilmente, eccetera. E questa cosa la fa come se si mettesse i soldi sotto al cuscino, però dandoli a un'istituzione che poi lavora per tutta, li rigira per utilizzarli in alcune età. E questo è giustissimo, però è anche sacrosanto che uno poi quando va in pensione ricevi di nuovo tutti i soldi che ha versato. Perciò che mi si venga a dire che la mia scuola va pagata con i soldi che ha versato mio padre per la pensione, perciò per quando non sarà più in grado di lavorare, è una cosa assurda. E soprattutto, se proprio vogliamo dirla tutta, al massimo andiamo a tagliare le pensioni dei parlamentari che solo se lavorano 5 anni poi hanno vitalizi, la macchina blu, il pranzo con i gamberetti, la salsa rosa, la ragosta, che moglie gli è aumentata a 1,20 euro invece che 1 euro. Poveracci. Vero, sì. Minuto di silenzio, un minuto di musica che ci piace di più. Egg dei non leggo, scritto piccolo, Mr. Bungle stava scherzando anni 70 con Egg. Hey. show if you won't look in the mirror. Yo! Eccoci tornati in onda dopo questa bellissima canzone molto matta degli anni 70. Sono le 16:34 e 23 secondi, siamo di nuovo su Onda Rossa 87.9. Vi ricordiamo il telefono 06491750 per chiamarci in onda, oppure la mail ondarossa@ondarossa.info. E c'è sempre anche la mail della redazione di Regioneir, regioneir@ondarossa.info. Certo, stavamo continuando a parlare della riforma e un po' di come siamo sempre stati trattati di fronte ai momenti di crisi noi giovani. E ci vediamo ancora una volta con il governo che promette scusate, ma Lucio, non c'è niente da ridere, non c'è niente da ridere, assolutamente. Allora, mettiamo le cose in chiaro. Io sto facendo un discorso serio e c'è il biondo che mi fa bubusette da dietro il mixer. Mi pare giusto, ecco. Adesso riprendiamo un po' di serietà, magari inframmezzando. Vabbè, scusa, Benigni diceva non ci resta che piangere insieme a Troisi. Io dico non ci resta che ride. C'è qualcosa di male? Secondo me no. Vabbè, speriamo. Sam ride. Speriamo che, come ha detto il nostro Biannone, non ci resta che ride, perché appunto. No, cioè, io rido perché non ci resta che ride, però non speriamo che non ci resta che ride, cioè, speriamo di uscire da questa situazione di merda, di schifo. Di escremento particolare. Appunto, stavamo dicendo. Finiamo il discorso serio, per favore, ragazzi. Allora, dicevamo il governo, la riforma. Le pensioni eccetera eccetera, che appunto eravamo arrivati più o meno qua. Allora, appunto, il governo ha fatto questa riforma che l'ha presentata cercando di dire sì, è tutto per i giovani, facciamo tutto per i giovani, ma come hanno fatto gli altri governi, hanno detto sempre bisogna rilanciare sui giovani, sono il nostro futuro, avranno un buon futuro, bisogna sputare lacrime e sangue oggi per avere un futuro migliore domani. Ma come sempre ci hanno sempre dato una pacca sulla spalla a noi giovani, dicendoci siete il futuro. Ma noi non abbiamo un futuro con un presente di lacrime e sangue. C'era una frase omessa lì, nel senso, no, voi siete il futuro, io nel futuro non ci sto per ciasti cazzi. Cioè, più o meno il concetto è quello. Più o meno il concetto è quello. Ma in un momento in cui un precario 35enne si sente dire ancora voi siete il futuro, si fa girare un po' i cosiddetti e dice, beh, so 20 anni che so il futuro, mi fate essere un po' il presente? E quindi appunto siamo sempre trattati come degli stupidi, ci trattano come contentino, diciamo, ci usano per far capire alla gente che noi siamo il futuro e quindi toccherà a noi poi risolvere quello che loro hanno cercato di rimettere a posto con le lacrime e sangue. Ma le lacrime e sangue che utilizzano loro non bastano, perché prima devono togliersi i privilegi a loro, prima devono togliere i soldi alla guerra, prima devono smettere di fare investimenti inutili su grandi opere in cui nessuno investe, perché 5 treni al giorno sulla tratta Torino-Lione vuol dire che la TAV deve essere sicuramente un fallimento e che non servirà a nulla. Quindi ancora una volta rilanciamo il nostro grido, noi non vogliamo essere solo il futuro, un futuro disastroso, perché appunto, come ha detto il nostro amico, loro nel futuro non ci staranno. Noi vogliamo essere un presente per dare valore al nostro passato, vogliamo avere un presente dignitoso, vogliamo uscire di casa, trovare un lavoro nostro e non dover stare in guerra con i nostri genitori per appunto combatterci un lavoro che teoricamente dovremmo avere tutti e due. Quindi ancora una volta inframmezziamo questo momento che il biondo aveva sciolto abbastanza con le sue risate, inframmezziamolo con una bellissima canzone per sciogliere un po' anche... Io direi che ci finiamo di ascoltare quella di prima, che nonostante sia un po' matta, è nata da tutti gli acidi che Mr. Bungle probabilmente si calavano, però merita rispetto, insomma, questo pezzo di 10 minuti che va un attimo a attraversare praticamente tutti i generi musicali, insomma, finiamolo di ascoltare, perché lo dico per chi ha meglio da fare, in 7 minuti si fanno molte cose, quindi se avete tempo andate a farvi una doccia. Precisamente dura 5 minuti e 28, perciò potete spegnere la radio e mettete la sveglia e poi la... In 5 minuti io vado da casa a scuola, tranquilli, quindi fate come tranquilli proprio. Fate altre cose. Dai, è bella così. Direi che è arrivata a livello poco radiofonico. Lasciamoli ai loro trip e salutiamoli, i Mr. Bungle con Egg erano. E, beh, direi che a questo punto continuiamo ad ascoltare un po' di musica. Arrivati a questo punto, prima però, se permettete, vorrei fare un commento sulle scelte musicali del nostro biondone. Cioè, però, sinceramente, sì, la canzone era bella, ma loro, dai, cioè, LSD come acqua, proprio stanno fuori. Che cavolo, è biondo. Che non l'ho detto? No, no, ma loro, cioè, non erano un gruppo, cioè era l'LSD che faceva proprio musica lei, capito? Ah, cioè, ma c'era la dinamide con loro. Erano quelli che l'ascoltavano, che erano talmente fatti che si immaginavano un gruppo che faceva questa roba. Certo, no, perché negli anni 70 è successo praticamente, no, tu dicevi LSD come acqua, è successo praticamente la stessa cosa che cercano di fare adesso, no? È stata privatizzata l'acqua. Hanno fatto dei sotterfugi così. Ah, e giusto. Perciò hanno detto, mo come famo, piamo se LSD, tutti capito? C'hai ragione. Cioè, quella, la cosa che costava di la stessa cosa. Dopo l'acqua, cioè... Cioè, perché tipo, paraga, vai, l'acqua e bevi l'acqua, troppo... bevi birra, perché l'acqua... Allora mi sa che ci tocca ubriacarci, Io già mi vedo a cena al posto dell'acqua la vodka. Mi sa di sì, Bello. No. Famolo. Succo patate! Pensa come stiamo poi a lezione, no? Bellissimo. Bellissimo. No, c'era un mio amico che prima del compito di matematica si faceva mezzo litro di vodka e poi andava là, piava sempre 7. Vero? Sì, lo dobbiamo fare. Oh, ma sostituiamo l'acqua dei rubinetti con la vodka. Vero? Ministro dell'istruzione, si annoti questa cosa, per favore. Acqua, rubinetto, vodka. È un... Post-it. È un trucchetto, alza la media a tutti, vedrà che saremo i migliori studenti d'Europa. Va bene, intanto andiamo ad ascoltare un pezzo di Queen con Somebody to Love. Ragazzi, non vi fate del male, non vi menate, su, tranquilli, pace. No, violenza è sempre un corno, su. Insomma, non capisci. Vabbè, infatti non capisco perché con tanto amore in un solo pezzo, come fate a menarvi con un tale sottofondo? Ma il tuo caro amico che suonava ex, ti ha passato qualcosa, dici la verità. No! Somebody to love, find me. somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, love, love, find me somebody to love, find me somebody to love, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, find me somebody, find me somebody to love, anybody find me somebody to ragazzi, per la prossima volta mi studiate il capitolo primo e il secondo e gli approfondimenti da pagina 250 alla 290. Per quando, professor? Per lunedì 12. No, professor, quel fine settimana io non studio. Perché guarda che ti boccio. No, professor, sabato 10 che non lo sa? C'è la serata degli auto organizzati, i nuovi assalti frontali. Assalti frontali, quello che vede è vero. Sabato 10 dicembre a Generazione B, via Alberto da Giussano 59, Inoki e Assalti Frontali. A partire dalle ore 21, serata a sostegno di studenti medi auto-organizzati Roma, ex Cinema Breneste, via Alberto da Giussano 59. Un'altra occasione, vado in giro nella notte, mi consumo nel... Non mancate o vi bacio. La strada benedice quelli come noi, quei figli di puttana non ci avranno mai. Potete prendervi il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle. E questo cos'era? Era uno spot pubblicitario. E chi l'ha fatto? Io e te. Davvero? Sì. Perché? Perché sabato 10 c'è la serata a sostegno degli studenti medi auto-organizzati. Dove? A Generazione P, via Alberto da Giussano 59. 59? 56. Che al contrario è 95? Sì. 59. Ok, 56. Via Alberto da Giussano. Esatto. Via Alberto, Generazione P. Ex Cinema Breneste. Serata. Esatto. Vabbè, lo vogliamo 10. Ripetere tutto in ordine perché se va bene, allora, sabato 10 vi invitiamo tutti alla serata a sostegno degli studenti medi auto-organizzati Roma, che si svolgerà in via Alberto da Giussano 59, all'ex Cinema Preneste occupato. Este? Preneste? Este? Preneste? Este? Preneste? Preneste? Este? Vabbè. Abbiamo capito che ormai le LSD... Ex Cinema Preneste ci vengono a suonare i Nokia Assalti Frontali, solo 4 euro, perciò mi raccomando non mancate, è una serata fantastica. Generazione P, via Alberto da Giussano 59, per gli studenti auto-organizzati di Roma. E basta. Non mancate o vi boccio. Giusto, giusto. ci boccia a tutti il pro. Esatto. Born. visto che non ci vogliamo far concorrenza tra di noi, ricordiamo che sabato 10 dicembre alle 6 al laboratorio occupato Agrobax ci sarà la presentazione dell'agenda scarceranda. Perciò tutti alle 6 a Agrobax e poi a Generazione P per i Nokia e assalti frontali. Questi erano i Rage Against the Machine, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa in FM, gli 87.9 pure perché AM ci ho provato ogni tanto ad ascoltare, ma arrivano le trasmissioni francesi che per quanto possono essere carine, insomma sti cazzi, tutti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, 0649175050 per chiamarci in diretta, ondarossa@ondarossa.info. Per invece scrivere un'email. Mandiamo un altro pezzo prima della sigla e prima del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Comunicazione, guerriglia e formazione. Nella città una voce che si impone. Azione, un pugno di fratelli, un'illuminazione. Mille ombre per una cospirazione. Il cielo grigio piombe. Ricordiamo per le sottoscrizioni il conto corrente 61 80 40 01. Per sottoscrivere intestato a Onda Rossa, via dei Volci 56, 00185 Roma. Del mio sommergibile la stessa traiettoria, al margine per scelte sotto la mia scelta una voragine che ingoia, attore in cerca di una storia, invento situazioni nel deserto di cemento, sopra gli occhi il firmamento e sotto i piedi la forza distruttiva, la mia indole creativa in ogni notte cattiva, combattiva per ogni ordine una sfida, la mia banda mette in campo l'inventiva, la mia banda muove in fretta, si fa largo con l'accetta in questa terra maledetta, quello che prendiamo è solo quello che ci spetta. Azione, comunicazione, guerriglia, informazione, nella città una voce senza un nome, azione, un pugno di fratelli, un'allucinazione, mille sognatori senza direzione, azione, comunicazione, guerriglia e formazione, nella città una voce che si impone, azione, un pugno di fratelli, un'illuminazione, mille ombre per una cospirazione. Ogni uomo coglie al volo l'occasione, per riuscire a capire serve comunicazione, ma non c'è la vera libertà d'espressione, così la notte parlo davanti ad un vagone, m'hanno imposto un modello che non riconosco, so se sto macello ma vorrei cambiare posto, qui non mi fido di giornali e TG, mi chiedo per quanto continuerà così, comunico il disagio attraverso il colore, messaggio che splende coi primi raggi di sole, wild terror style, lettere in one line, in prima linea con la rima, rimarcandolo in freestyle, nel buio l'unico rumore sono gli spray, dacci la caccia se vuoi ma non saprai, è un sistema comunicativo concreto, per te è solo bombardamenti a tappeto. È il nostro nome sui vagoni con gli spray, i nessi del codice che affiorano in freestyle, tentano di spegnere sta fiamma, lo sai, se condivido e comunico non si fermano mai, per questo rappresento l'impazzita variabile che lascia la sua impronta sul tuo stabile, abile a rendere le strumentali gravide, in questo mondo tecnologico ad evoluzioni rapide la mia è una risposta e va da 0 a 100 all'arredamento urbano, fermo al primo 900, poi qui è tutto di cemento, una colata grigia ma non ci avete spento, fuori e dentro, sono sempre in viaggio, contro sto linciaggio, tramite linguaggio, informo da subito, non dubito, mi